Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Dai, lasciamoci baciare. D'altronde il sole bacia i belli, perché mai dovremmo resistere? È così piacevole sentirlo sulla nostra pelle, ma facciamo in modo che la passione non lasci il segno. Buongiorno, eccomi qua e bentornati a Obiettivo Salute Weekend. Vogliamo imparare a prendere dal sole tutto e solo il meglio. Per questo al sole abbiamo dedicato la nostra copertina di questa settimana. In nostra compagnia il professor Antonino Di Pietro, dermatologo e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis Gruppo San Donato. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie per questo invito solare. Ah, è vero. Professore, è arrivato il nostro momento. Lasciamoci baciare. È piacevolissimo sentire il sole sulla pelle. Sappiamo anche che ci fa bene, non è un segreto. Il sole ci piace, l'umore senza dubbio ci guadagna, perché quando ci lasciamo baciare dal sole aumenta la produzione di quello straordinario antidepressivo naturale, la serotonina, che agisce proprio sul controllo dell'umore. Ma, professore, non è l'unico vantaggio, perché il sole ci fa belli, ma aiuta anche la nostra salute, perché possiamo dire che il sole è uno straordinario integratore, professor Di Pietro? Ah, ma direi proprio di sì, soprattutto di vitamina D, che è importantissima non solo per le nostre ossa, ma stiamo scoprendo sempre di più che è importante ad esempio anche nella prevenzione degli epiteliomi. Una buona presenza di vitamina D nel nostro organismo ci protegge anche verso l'insorgenza di tumori epiteliali che spesso vengono sulla cute, come anche frena la comparsa delle cheratosi attiniche, che sono molto frequenti in chi prende tanto sole, ma anche il sistema immunitario avvantaggia del sole. Una pelle esposta al sole è più forte di una pelle che invece rimane sempre coperta tutto l'anno. Del resto noi siamo animali diurni e quindi siamo stati creati, plasmati per vivere, no, al sole. È molto importante però evitare gli eccessi. E certo, il messaggio, professore, l'abbiamo ricevuto, ormai lo conosciamo, il sole ci fa bene, ci fa sentire bene, i vantaggi sono tanti, ma come si dice bisogna usare la testa, le giuste attenzioni, c'è sempre l'altro lato della medaglia. Allora oggi la nostra copertina vuole proprio ricordare e dare delle indicazioni mirate suggerite dal professor Di Pietro. Allora professore, se lei è pronto, pensiamo a chi sta partendo per trascorrere un weekend al mare o in montagna e ha intenzione di goderselo a pieno. Che cosa possiamo suggerire? Sicuramente dobbiamo portare nel nostro bagaglio tutto ciò che può servire per difenderci, soprattutto i primi giorni, dai raggi solari, dai raggi ultravioletti. E a questo proposito sicuramente una buona crema solare che schermi la nostra pelle e dia il tempo ai melanociti, che sono le nostre cellule che ci difendono, no, dal sole, di produrre quella giusta quantità di melanina, che poi è la bronzatura, che dovrà frenare la penetrazione dei raggi ultravioletti. Professore, per chi ogni anno fa i conti con l'eritema, sì, che cosa deve fare? Prevenire meglio che curare? Come si fa? Il weekend in vita, le ore sono poche, vogliamo prenderci il sole, però professor Di Pietro, come si può fare per abbronzarci, certo, senza rischiare? Dunque, l'eritema è una dilatazione dei vasi capillari, soprattutto dovuto al calore eccessivo a cui la pelle viene sottoposta quando si sta al sole in estate, e questa dilatazione può creare anche un'infiammazione, per cui la pelle appare più rossa, scotta. Che cosa fare in questi casi? Cominciare qualche settimana prima mettendo nella dieta, magari a fine pasto, delle belle ciotole piene di frutti di bosco, che sì, sono i flavonoidi. In caso poi di esposizione al sole, soprattutto nei primi giorni, e vediamo la comparsa dell'eritema la sera, dell'amido, ecco, diciamo che un'altra cosa che potremmo mettere in valigia è dell'amido in polvere, ecco, sì, perché non si sa mai. Ma se poi ci scordiamo di portarci l'amido, ricordiamo un vecchio rimedio della nonna, anzi dei miei nonni dermatologi, nonni in senso professionale, dei, sì, miei maestri dermatologi, che era l'impaccoccione, cioè del pane inzuppato d'acqua, avvolto in un canovaccio e poi appoggiato sulla cute. Questo può essere molto utile, è un rimedio casalingo ma molto efficace nel combattere l'eritema a fine giornata o quando il calore praticamente ha causato i suoi danni dando l'eritema solare. Professore, a proposito di prevenzione, parliamo anche di herpes, perché è un classico, primo sole, prime fioriture. Sì, perché se il nostro organismo si indebolisce, è possibile che il virus dell'herpes, che è dentro di noi, perché ormai il sonnecchia, 90%, certo, ecco, rimane sempre un po' per tutta la vita, possa diventare più cattivo, e se il sistema immunitario sta combattendo altre battaglie non riesce a frenare questo virus che riaffiora in genere sulle labbra o su altre parti del corpo, a volte i genitali ma anche altre parti del viso, e si manifesta. In questi casi la prevenzione è importantissima, evitare il surriscaldamento, evitare l'abbronzatura selvaggia è fondamentale, ma se il virus sta per comparire, noi ce ne accorgiamo perché c'è il classico pizzicore, bruciore, no, sulle labbra, un cubetto di ghiaccio a volte può essere utile, quindi raffreddare la parte, questo funziona tanto prima si riesce a compiere, quindi appena sento il pizzicore, un cubetto di ghiaccio che per qualche minuto tende a raffreddare la parte, ripetuto per 5-6 volte. Ecco, questo a volte può essere utile per frenare l'infezione da herpes che sta per ricomparire. Professore, proprio un consiglio, noi sappiamo che è bene scegliere il solare giusto in base al nostro fototipo, ma partiamo, gli amici ci invitano per un weekend, si parte, si va per una gita fuori porta, acchiappiamo il solare che abbiamo a casa dello scorso anno o ne dobbiamo prendere uno nuovo? Dunque, è sempre opportuno… Ho visto un po' un'esitazione a questa mia idea. No, perché è una domanda che mi fanno spesso, ma sono anche guai che vedo spesso ogni anno di pazienti che hanno utilizzato solari dell'anno precedente e che erano scaduti. Sì. Ricordiamo che quando si apre un prodotto, soprattutto se poi si è in un ambiente polveroso e le spiagge insomma e sono poi caldo, perché caldo, sì, ecco, con facilità può alterarsi. Molti solari, una volta aperti, in genere più di 6 mesi, poi non durano. Quindi quello dell'anno precedente non è una ideale. Buona idea. Professore, grazie. Torni presto a trovarci. Buona giornata, buona domenica, buon weekend. Grazie. E invece voi restate lì dove siete. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Torniamo subito dopo insieme e continuiamo a parlare di sole. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Obiettivo Salute Weekend. Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini. Dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli. È tornata l'estate e torniamo anche noi, ma noi ci siamo sempre, tutti i giorni, 3 volte al giorno, sabato e domenica compresi. Eccoci e continuiamo a parlare di sole. E lo facciamo partendo da una ricerca, frutto del lavoro dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è andata a studiare l'effetto dei raggi solari sul SARS-CoV-2. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Mario Clerici. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno, come sta? Io bene, sono contenta che lei sia con noi perché ci deve raccontare di questo studio. Intanto agli amici che ci stanno ascoltando voglio ricordare che il professor Clerici è docente di immunologia all'Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. Professor Clerici, che cosa avete scoperto in questo studio che vede la collaborazione tra immunologi e astrofisici? Già questo mi piace. Eccomi, grazie. Dunque, comincio subito col dire che ci sono tre tipi di raggi solari, UVA, UVB e UVC. Quelli che arrivano sulla superficie della Terra, quelli quindi che ci abbronzano, sono gli UVA e gli UVB. Gli UVC non arrivano sulla superficie della Terra e sono per esempio quelli che si usano, quelli che hanno le vasche coi pesci, sono quelle lampade che irradiano l'acqua e la purificano. Noi abbiamo fatto uno studio partendo dagli UVC e abbiamo visto che una piccolissima dose, veramente più bassa di quella che si usa per purificare l'acqua, per secondi uccide il 99,9% del virus SARS-CoV-2, che è il virus del Covid. Dove portano i risultati del vostro studio? Dunque, comincio subito col dirle che abbiamo replicato gli stessi dati anche con UVA ed UVB. Quindi questo vuol dire che la diminuzione di infettività che si sta osservando è oltre all'utilizzo delle distanziamento sociale, distanziamento, certo, e anche conseguenza senz'altro del fatto che stanno arrivando sulla Terra in estate una quantità molto più alta di raggi solari. Quindi da un punto di vista di giustificazione di quello che sta succedendo, giustifica il dato. L'altra cosa è che siamo stati contattati da molte ditte che fabbricano lampade a raggi solari per produrre macchine che serviranno per purificare ambienti piuttosto che superfici, piuttosto che banconote, quindi ha un utilizzo potenzialmente pratico molto, molto ampio. Professore, se i raggi solari UVC, siamo partiti dagli UVC, ma anche gli UVA e gli UVB hanno questo effetto, quando l'estate finirà, insomma, questo effetto protettivo sarà sensibilmente ridotto. In pratica, da questo studio, voi o lei si sente di fare una previsione per l'autunno? Comincio col dire che nessuno di noi può predire quello che accadrà. Se accadrà la stessa cosa del primo SARS, non ci sarà una seconda ondata. Se è la MERS, che è il secondo coronavirus, sì. Secondo me ci sarà una seconda ondata che però sarà molto più lieve, perché il virus sarà stato reso più debole da mesi di esposizione ai raggi solari, ma soprattutto perché sappiamo cos'è, quindi noi medici siamo in grado di fronteggiarlo prima. Certo. Per cui credo che ci sarà una seconda ondata, ma sarà molto più lieve e saremo molto più in grado di fronteggiarla. Professore, noi l'aspettiamo qua comunque. Grazie, buona giornata. A lei, grazie, buona giornata. Tempo. Allora, possiamo prendere il sole, ma naturalmente con tutte le attenzioni e le precauzioni del caso, e comunque abbiamo le ricerche che ci dicono quanto e come il sole produce degli effetti positivi per la nostra salute, ad esempio anche l'umore migliora, ma non solo. Esporsi al sole con intelligenza aiuta anche a riposare meglio. Sembra una cosa strana detta così, ma ci facciamo spiegare tutto dal professor Roberto Manfredini, che è in linea con noi, direttore della clinica medica all'Università di Ferrara e autore di Un tempo per ogni cosa. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma è vero che prendere il sole fa dormire bene? Beh, assolutamente sì. Ed è con piacere che cominciano a vedersi ricerche in cui acquisisce una grande importanza una coppia di attori, da una parte la luce, il sole, e dall'altra il sonno, che sono quindi due attori importantissimi della regolazione del nostro organismo, in quanto la luce, e nessuna meglio di quella del sole, è in grado di regolare e settare i ritmi circadiani del nostro orologio biologico, del quale il sonno è una delle forme principali. Quindi non c'è dubbio che il sonno, il sole, pensate, la luce, possiamo dire che sia un bene di tutti. È passato poco più di un secolo, forse non tanti lo sanno, 1916, per la prima volta, da una serie di urbanisti a New York, quando si cominciavano a costruire tutti quei grattacieli che noi adesso conosciamo, ha stabilito per legge la cosiddetta zoning revolution, cioè la luce era un diritto di tutti, quindi anche costruendo i grattacieli bisogna concedere anche chi sta a basso e a terra di avere la sua quota di luce, perché è salute. È vero, la luce è proprio salute. Tra l'altro, professore, ne abbiamo parlato proprio nel corso di questa trasmissione, e se queste ricerche dimostrano questa relazione benefica tra sole e sonno, quali indicazioni può darci, professore? Beh, intanto i lavori si stanno aumentando. Un lavoro molto recente ha dimostrato che, andando a vedere molto semplicemente gli impiegati in un ufficio dove si trovavano seduti nella loro postazione, quelli più vicini alla possibilità di avere luce solare rispetto a quelli più lontani avevano una media di sonno più elevata, e una qualità del sonno maggiore, che è importante, e poi anche tutta una serie di effetti favorevoli, per esempio sull'umore, sulla sensazione di vigore fisico, eccetera. Ma già qualche anno fa, sempre negli Stati Uniti, si era visto che un certo tipo di illuminazione rispetto che un'altra sugli impiegati poteva avere un effetto favorevole. E poi non c'è solo quello. Pensiamo anche, un argomento anche ancora poco conosciuto da noi, ma molto esplorato all'estero, anche se uno dei primi studi è venuto proprio dal collega Benedetti del San Raffaele, aveva visto che i pazienti che erano nelle stanze sul lato est, cioè quelle più esposte alla luce, venivano dimessi prima, cioè stavano meglio prima, avevano una decenza più breve. E un'altra serie di studi negli Stati Uniti ha dimostrato che l'esposizione alla luce naturale, non artificiale, può ridurre la degenza fino anche al 30-40%. Quindi pensate sulla salute non solo di un sano, ma anche di un malato addirittura. Quindi approfittiamo di questa stagione per uscire, fare delle passeggiate, magari naturalmente nelle ore meno calde. Se ci esponiamo al sole, professor Manfredini, dobbiamo sempre ricordare di farlo con le dovute attenzioni e precauzioni, ma è nelle ore centrali. Ma facciamo dei bagni di luce. Sì, una mezz'oretta, è provato scientificamente che basta una mezz'oretta di sole presa al mattino. Sì. Quindi in un momento anche favorevole dal punto di vista della temperatura o del pericolo di esposizione, per consentire al nostro orologio biologico di settarsi in una maniera ottimale. Quindi la mezz'ora di luce, il bagno di luce della mezz'oretta al mattino, la passeggiata, andare a lavorare a piedi, quello che si può, in bicicletta, quello che si può fare. Lei dice in bicicletta perché vive a Ferrara. Lei dice in bicicletta, e Ferrara è un po' la città delle biciclette. Da noi è che vero, città magnifica. Bellissima. Quindi lasciamoci baciare dal sole, non proteggiamoci se diventa troppo appassionato, perché poi la passione lascia il segno, ma facciamo questi bagni di luce anche per i nostri bambini. Adesso finalmente possono giocare all'aperto, al parco, nelle ore più fresche, perché insomma la luce nutre la nostra salute, e con la luce si cresce, professor Manfredini. Sì. Fa crescere sani e forti. Assolutamente sì. Grazie professor Manfredini per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Grazie. Ricordo a voi dell'invito, e altrettanto il titolo del suo libro, Un tempo per ogni cosa, in cui il professor Manfredini spiega anche ai non addetti ai lavori in modo molto chiaro tutte le meraviglie che grazie alla cronobiologia si sono scoperte, i nostri ritmi, il nostro orologino interno. Grazie al professore, grazie a Laura Vanossi in redazione, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica. Domani, come sempre, vi aspetto a mezzogiorno, perché mangiamo insieme. A domenica c'è la bufala in tavola, quindi vi aspetto. Ho preparato un menù molto molto interessante e buono. Vi aspetto.